oltre a combattere giustamente la difesa del prodotto di qualità italiano, non c'è anche un lavoro da fare sulle reti di impresa, sulle dimensioni di queste imprese? Cioè, se vuoi andare in Cina, in Brasile, in Russia, guardi, devi avere anche le dimensioni. Manfredini. Sì, come settore industriale noi siamo anche caratterizzati appunto dal fatto che esprimiamo un distretto specializzato, che è quello di Sassuolo, che è la nostra forza. Ecco, è un distretto che ha dimostrato nel tempo di essere un distretto di produrre innovazione, di produrre anche competizione, ecco, perché se abbiamo inventato e sviluppato un prodotto che poi hanno copiato in tutto il mondo e siamo leader mondiali nell'esportazione di questo prodotto, questa è una dimostrazione precisa, quindi non abbiamo bisogno di indicazioni per cambiare l'impostazione del nostro settore, che funziona benissimo e che ha dimostrato che funziona, naturalmente con sempre la considerazione che un settore manifatturiero, un'industria, un sistema industriale deve sempre innovarsi, deve sempre è un sistema dinamico, quindi non deve mai sedersi su se stesso o sugli allori del passato. Sì, sì. Però noi abbiamo dimostrato di essere innovativi e di rimanere e di essere Manfredini, adesso quello che contestiamo sono e vogliamo siamo per la liberalizzazione. Quello che contestiamo casomai è la pratica scorretta della competizione libera, ecco, quindi questa la contestiamo tutti. Ma siamo competitivi, le assicuro io, nonostante che attraghiamo l'energia più cara le tasse, e nonostante che anche noi, come anche altri, come tutti insomma, i manufatturieri, lamentiamo che il sistema paese deve migliorare, ecco, noi paghiamo l'energia. Ma adesso facciamo un'operazione, sì, diciamo, di questo tipo, fermo restando che la concorrenza sleale, truffaldina, sì, le falsificazioni non vanno bene, i cinesi devono smettere di fare questo, lo diciamo da anni, però, e fermo essendo che il paese ha le infrastrutture carenti, che non arriva l'autostrada Sassuolo, che le tasse sono alte, che l'energia costa il 30% in più, tutto questo è giusto, sì, lo sappiamo, però un minimo di autocritica, perché io non vorrei che il benaltrismo diventasse la regola. Che cosa si può fare al vostro interno, fermo restando che le condizioni per competere devono essere uguali per tutti, che il campo da gioco deve essere uguale per tutti? Guardi, io ho capito bene la sua domanda, no? E le rispondo. Noi lavoriamo in una condizione di grande competizione, perché operiamo in competizione con tutto il mondo, dopo aver insegnato a tutto il mondo a fare il nostro mestiere. Quindi è sufficiente questo per spingere le aziende a fare quelle evoluzioni che devono fare, che l'evoluzione del mercato, dei tempi, diciamo, suggerisce.